la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Succedono cose davvero terribili. L'esistenza e la vita spezzano continuamente le persone in tutti i cazzo di modi possibili e immaginabili. David Foster Wallace, brevi interviste con uomini schifosi. Abbiamo scelto questa frase per aprire la puntata di oggi, che ha come ospite una delle storie più cupe e tristi del nostro paese, la strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno del 1980. Strage nella quale morirono 81 persone che si trovavano a bordo dell'aereo DC-9 Itavia. Sono trascorsi 35 anni. Daria Bonfietti aveva 35 anni ed era la sorella di Alberto Bonfietti, allora 37enne, che era a bordo dell'aereo. Noi siamo di Mantova, Bonfietti è un cognome mantovano. Sono nata a Mantova insieme a mio fratello, lui aveva 2 anni più di me, e abbiamo fatto tutto insieme, le scuole, quelle che ha fatto lui dopo le ho fatte anch'io. Lui è venuto a Bologna appunto all'università, io dopo 2 anni appunto essendomi diplomata sono venuto a Bologna all'università, abitavamo assieme qui a Bologna, insomma era una famiglia meravigliosa, tutti contenti e felici, i 2 genitori che si sono sacrificati per farci studiare, noi lavoravamo per studiare, bla bla bla, insomma quelle belle famiglie degli anni 60 e 70. Nel 75 mia madre, che abitava a Mantova con suo marito, le prende tumore. L'anno dopo, nel 76, mia mamma muore, erano qui a Bologna tutti e due, allora mio fratello invece da Venezia, da Trento, come le dicevo, andò dopo il militare a Mestre ad abitare, Venezia. Mestre si sposò e nel 73, lui era sposato, ha fatto una figlia nel 73, nell'80 ci coglie questa cosa a me e mio padre che abitavamo qui, io e lui. Insomma, dopo nell'85 muore anche mio padre, qui io in 10 anni li ho persi tutti e tre. La cosa peggiore è stata in qualche modo la scomparsa di suo fratello, perché degli altri ce ne si può fare in qualche modo una ragione, ma è drammatico perché mia madre era giovane e capisce, insomma io avevo 30 anni, io dai 30 ai 40 li ho persi tutti e tre, quindi sì, anch'io ero giovane, e quindi insomma mia madre aveva 58-59 anni, io nei primi anni, tanta in poi, non ho potuto parlare di mio fratello e della morte, cioè era troppo, non ce la facevamo, abbiamo cercato di non pensarci più, di rimuovere, ogni tanto vedevamo mia cognata e mia nipote, ma non ce la facevamo. E poi però perché a un certo punto ha deciso di mettere in piedi proprio l'associazione? Mio padre, mi sono svegliata quando è morto mio padre, tragedie per mesi, e poi dopo ho cominciato a fare quello che deve fare un cittadino, pretendere la verità, insomma questo è stato il senso di tutto. E in quel momento ha anche incominciato a conoscere gli altri familiari? Comunque allora, lui nomi? Dove li prendevo? Chi sono? Dove vado? E siccome nessuno mi ha... Io non ho mai sentito nessuno delle istituzioni, quindi ovviamente neanche parenti, insomma per dire, dall'80 in poi io nessuno, cioè quel giorno lì è successo, il giorno dopo noi eravamo senza mio fratello, ma non ho più sentito nessuno, non ho mai sentito nessuno. E quindi voglio dire, è stata tutta una costruzione successiva, una volta che ho deciso, dico allora qui c'è qualcuno che ha una qualche atto, come si chiama, una qualche iniziativa giudiziaria in piedi, quella è il giudice, e ho cominciato ad andare dal giudice di turno, bla bla bla, a sentire come andava, ma fino a prima nessuno, ha ammesso anche che qualcuno delle istituzioni, quindi la magistratura, come ho visto, pochissimo, ma insomma un qualcosa era stato aperto, no? Qualcuno aveva detto qualcosa, il Parlamento, qualcuno aveva fatto qualche intervento, ecco, io non ho seguito nulla di tutto ciò, non ho ascoltato, non ho visto, non ho sentito. Dopo ho ricostruito tutto, ho deciso che poco si sono interessati, intanto che io ero a casa a piangere, appunto gli altri, le istituzioni, per questo che sono andata avanti, dovevano fare, io potevo anche permettermi di non fare, facevo la parente, voglio dire, facevo quella che piange, come hanno fatto tutti gli altri. Perché se lei un attimo ci pensa, appunto i morti sono 81, bene o male, i parenti sono 300, nel senso che padri, madri, figli, genitori, non si è mosso nessuno, voglio dire, come non sono riuscita io, non c'è riuscito nessuno, col senno di poi sono piene le fosse, è vero, se non fossi partita io forse partiva qualcun altro, non lo so, non ci interessa e non mi interessa, però così è andata. Allora, le istituzioni cosa hanno fatto? Il Parlamento cosa ha fatto? Gli cade un aereo, cosa ha fatto? la commissione trasporti il ministero dei trasporti, infatti sono stati condannati, il ministero dei trasporti, il ministero della difesa. Questa è la gioia, ammesso che si possa dire così, della mia battaglia, ci sono riuscita, perché uno poi dice: allora cosa hai fatto? Bene, sono stati condannati, poi dopo le scriveremo bene la storia, chi ha voglia la legge, non pretendo mica che tutti voi, lei, lo sento, che siete giovani, sappiate tutte queste cose qui, perché siete nati dopo come minimo, però io che lo so cosa ho fatto. Ma se io non partivo nell'85 era già finita? Il primo giudice che ho visto dice: beh, stiamo archiviando, non c'è niente da scoprire. Cioè, questo è il punto, avevano vinto, invece dopo sono stati condannati, è una piccola soddisfazione, ma insomma almeno ha trionfato quel poco che poteva trionfare. Abbiamo scoperto cosa è successo, e cioè è stato abbattuto, allora era cedimento strutturale, ma insomma tutta un'altra cosa. Invece c'è stato un momento in cui ha sentito, magari proprio ultimamente, che le istituzioni le erano vicine finalmente dopo 35 anni rotti? No, sono stati intervalli, e già nel 96 su questa vicenda bisogna dirlo, insomma, no? Cioè, ci sono stati momenti in cui le istituzioni si sono atteggiate in maniera diversa anche nel corso degli anni. Nel 92 per esempio l'allora ministro della difesa si costituì parte civile contro i militari che intanto il giudice priore aveva cominciato a incriminare per altro tradimento. Degli atteggiamenti diversi anche nel corso di questi 30 anni ci sono stati, non risolutivi, perché non c'era nessun segreto di Stato e nessuno diceva di sapere nulla, cioè non è che era stato a posto, no? Chi ha tenuto nascosto questa cosa l'ha fatto dolosamente, non l'ha fatto perché appunto si doveva fare, l'ha fatto dolosamente, quindi ha nascosto e ha distrutto tutto quello che poteva distruggere. Per questo sono stati condannati i due ministeri, insomma, non per favolette, perché hanno distrutto tutto quello che potevano distruggere per impedire alla verità di farsi luce. Quindi nel corso degli anni, da quando abbiamo iniziato, insomma, anni 85 e poi 90, dopo si è costituita, questa era la risposta alla sua domanda, l'associazione, sì. L'associazione l'ho costituita nell'88, però dopo era già successo tutto, nel senso che si era già andati al recupero del relitto, avevamo già fatto in modo che sulla vicenda tornasse l'attenzione. Se Daria Bonfietti non avesse deciso di combattere mettendo da parte il dolore che fiacca, forse non saremmo qui a raccontare questa storia, e dunque la prima volta di Daria è un po' anche la nostra, perché riguarda la storia di tutti noi e di un paese che non ha saputo difendere i suoi cittadini. Quello che resta è un'indignazione collettiva che però purtroppo dura poco. Poi però resta un gruppo di persone che chiede chiarezza, come racconta Paolini nello spettacolo dal titolo Ustica. Su un noto quotidiano nazionale nel 1989, mese di settembre, esce questo: bugie su Ustica, vergogna di Stato, 7 colonne, mamma mia come dobbiamo esserci indignati, eh? Ecco, io vorrei che stasera, complice il freddo, non vi indignaste e non vi scaldaste troppo, sapete? Perché a noi italiani l'indignazione dura meno dell'orgasmo. E dopo viene sonno. Se invece l'indignazione non te la dà, forse ti dura il cervello acceso più a lungo, l'interesse più a lungo. Perché mai le storie finiscono quando noi decidiamo che sono finite. Serve un residuo di energia in più, una resistenza che duri un po' di più. Ecco perché queste storie lunghe costano maledizione, perché di solito poi a seguirle restano in tre. Daria Bonfietti, io durante la chiacchierata che abbiamo avuto adesso ho avuto la sensazione che di aver davanti una donna molto combattiva, ma anche una donna veramente segnata, insomma, dal dolore, perché di fatto voi come Bonfietti nella storia ci siete entrati malgrado voi, cioè vi è arrivata addosso, insomma, questa storia di Ustica. La cosa che mi ha sempre colpito di questa storia, gliel'avevo detto anche in un'altra intervista e che lei poi ha ribadito anche in questa chiacchierata, è che nessuno delle istituzioni si è presentato neanche a stringere una mano, neanche a dire, insomma, un segno, no? Un segno che ci fosse, un segno che si prendessero carico di questa storia terribile. Lei però, e questa è l'altra cosa che di questa storia mi ha sempre colpito, ha sempre rappresentato in parte quella parte degli italiani, insomma, buona, combattiva, che nonostante tutto crede nelle istituzioni, perché lei non ha mai fatto atti sovversivi, ha sempre proceduto rispettando tutti i passaggi che si dovevano rispettare. Ecco, oggi, a distanza di così tanti anni, quando si guarda indietro, cosa pensa? Beh, penso che era una battaglia che si doveva fare, io l'ho fatta perché credo davvero nelle istituzioni e credo che dobbiamo ancora pensare di essere in uno stato di diritto e quindi credo che certi diritti, certi valori siano irrinunciabili, quali il diritto alla verità e il diritto alla giustizia e il diritto alla trasparenza. Alla trasparenza. Sai, insegnavo queste materie, insegnavo economia, insegnavo diritto ai miei studenti e non potevo non pretendere da loro delle cose e non pretenderle dalle istituzioni che dicevo e insegnavo anche loro a conoscere, ad amare, a rispettare, magari a frequentare come attivamente. Ecco, questa battaglia si doveva fare perché, come dicevamo prima, nell'immediatezza questo evento è stato vissuto come cedimento strutturale, gli aerei cadono, le tragiche ovvietà e quindi nessun uomo o donna delle istituzioni, come diceva lei, mi ha stretto la mano o ci ha stretto la mano, non esistevamo. Io sono riuscita a smuovere inizialmente questa coltre di silenzio che coloro che volevano non si sapesse cos'era successo quella notte nei nostri cieli, erano riusciti a spargere e a far passare. Avevano nell'85 coloro che avevano deciso di impedire alla verità di farsi luce, vinto. C'è un giornalista, grande amico nostro ormai, Andrea Purgatori, che sul Corriere della Sera, non sul giornaletto di provincia, ma sul Corriere della Sera continuava a ribadire che l'aereo era stato abbattuto da un missile e nessuno lo considerava. Io, rileggendo quei pezzi di Andrea Purgatori, dicevo: ma sul Corriere della Sera e nessuno si scandalizza, non risponde nessuno, non succede nulla, ma cosa c'è dietro? Questo è stato il grande momento di, come dire, di bisogno di capire cosa si nascondeva. La storia è davvero molto lunga. Nell'87 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giuliano Amato accettò di andare a recuperare il relitto in fondo al mare dopo la sollecitazione di un gruppo di intellettuali, un gruppo che venne chiamato i Sette Saggi del Comitato per la Verità su Ustica, che noi inducemmo a formarsi, formato da Antonio Giolitti, Scoppola, Ingrao, insomma, Irodotà, e allora insomma tutto partì da lì, vi fu il recupero del relitto nell'87, pensate, 3500 metri di profondità, andammo a cercare la verità perché a galla non la si trovava e insomma le indagini iniziarono in maniera un po' più accurata, furono nominate delle commissioni peritali per analizzare questo relitto, pensi, non era mai stata dall'80 all'86 nominata dal giudice di turno alcuna commissione peritale, nessuno indagava su nulla, insomma è stata una grande sottovalutazione, le cose sono cambiate dal recupero del relitto in poi, perizie consegnate ai giudici hanno cominciato a pronunciare la parola missile, nel 99 un giudice della Repubblica, il dottor Rosario Priore, dopo 9 anni di sue indagini, concluse con una sentenza ordinanza che ci dette per la prima volta la verità sulle cause dell'abbattimento del D-19. Dice Priore, cito sempre testualmente, il D-19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata. Nessuno, conclude Priore, ha dato alcuna spiegazione. Questa è una frase, secondo me, veramente importantissima, nella quale era chiuso tutto. Come? Ci abbattono un aereo civile e nessuno dà alcuna spiegazione e noi, paese italiano, oltre che cittadini italiani, istituzioni di questo paese accettano che qualcuno ci possa mai avere abbattuto un aereo civile in tempo di pace. Per me è troppo grande, quindi la battaglia continua, perché è evidente che vogliamo anche sapere il paese che ha per tanti anni risposto cose fandonie attraverso le rogatorie fatte dai giudici al nostro paese. Quindi state andando avanti e cosa state facendo? Quali sono le iniziative che state portando avanti? Beh sì, abbiamo chiesto anche quest'anno con forza al Presidente del Consiglio di attivarsi in misura più coerente, come dicevo prima. Nel 2007 il nostro ex Presidente del Consiglio di quella notte, 27 giugno 80, e poi Presidente della Repubblica per 7 anni, 85-92, Francesco Cossiga, cominciò a raccontare la sua verità, che fino ad allora aveva sempre ai giudici detto non sapere. Dal 2007 in poi cominciò a dire sì, in effetti forse dall'85 quest'ammiraglio Martini, capo del SISMI in quel momento, mi diceva che probabilmente, che senz'altro erano stati i francesi che volevano abbattere l'aereo del leader libico Gheddafi, che quella notte dove transitava c'era un volo Tripoli-Varsavia, e il nostro generale dei servizi Santovito, allora 80 del SISMI, avvisò Gheddafi di non transitare in quell'area, e quindi l'avvenimento programmato non ebbe luogo, ed ebbe luogo, dice Cossiga, per errore l'abbattimento da parte dei francesi dell'aereo civile. Questa è la verità che dice Cossiga, e che permette ai magistrati romani di riaprire le indagini attraverso rogatorie. Da 2007 in poi la Francia dare i nomi di coloro che stavano a Solenzara, e quindi dopo i nostri magistrati sono andati a interrogare in Francia coloro che erano per il personale presente a Solenzara. Siamo a questo livello. Insisto, non si può lasciare sola, dopo dire che non può fare di più la magistratura, e quindi è il governo del mio paese che si deve muovere, se ha voglia, se ha tempo e se capisce l'importanza di conquistare questa verità negata e accettata per troppo tempo come fosse vera, insomma. Signora Bonfietti, grazie anche alla sua tenacia, sono andate avanti le inchieste, si è fatta luce, si è fatta chiarezza, ma lei ha voluto dare forma anche a questo progetto, appunto, di lotta, chiamiamola così, con un luogo, il museo che racchiude un po' la storia di Ustica. Sì, noi abbiamo voluto fortemente il Museo per la Memoria di Ustica, che è stato inaugurato nel 2007 qui a Bologna, con il relitto del 19. Non potevamo davvero pensare che quel relitto, che tanto aveva significato per noi, per la nostra battaglia, e che poi, come voi ben capite, è anche l'ultimo luogo che gli occhi dei nostri cari, su cui gli occhi dei nostri cari si sono appoggiati, e insomma rappresenta troppo. L'abbiamo assolutamente voluto, una volta finita l'indagine penale in corso a Roma, e allora è nato il Museo per la Memoria di Ustica, che è visitato moltissimo dagli studenti, dai cittadini del nostro paese. Credo che sia un modo del tutto singolare, ma davvero determinante, perché fare memoria di una vicenda del genere credo rimanga ancora un atto importante, una testimonianza, e come dire, che rappresenta la volontà davvero mia come cittadina italiana di vedere finalmente scritta tutta la verità su questa vicenda. La prima volta termina qui. Abbiamo scelto di chiudere ricordando i nomi e cognomi dei passeggeri del volo 19. Potete riascoltare questa puntata sul nostro sito oppure sulla nostra pagina Facebook. Cercate La Prima Volta. Ci risentiamo domenica prossima. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Andrés Cinzia, Andrés Luigi, Baiamonte Francesco, Bonanti Paolo, Bonfietti Alberto, Bosco Alberto, Calderone Maria Vincenza, Cammarota Giuseppe, Campanini Arnaldo, Candia Antonio, Cappellini Antonella, Cerami Giovanni, Croce Maria Grazia, D'Alfonso Francesca, D'Alfonso Salvatore, D'Alfonso Sebastiano, Davì Michele, De Cicco Giuseppe Calogero, Delisi Elvira, Di Natale Francesco, Diodato Antonella, Diodato Giuseppe, Diodato Vincenzo, Filippi Giacomo, Fontana Vito, Fullone Carmela, Fullone Rosario, Gallo Vito, Gherardi Guelfo, Greco Antonino, Gruber Berta, Guarano Andrea, Guardi Vincenzo, Guerino Giacomo, Guerra Graziella, Guzzo Rita, Lachina Giuseppe, La Rocca Gaetano, Licata Paolo, Liotta Maria Rosaria, Lupo Francesco, Lupo Giovanni, Manitta Giuseppe, Marchese Claudio, Marfisi Daniela, Marfisi Tiziana, Mazzer Erika, Mazzer Rita, Mignani Maria Assunta, Monteni Annino, Norrito Guglielmo, Ongari Lorenzo, Papi Paolo, Parisi Alessandro, Barrinello Carlo, Barrinello Francesco, Pellicciani Anna Paola, Pinocchio Antonello, Pinocchio Giovanni, Prestileo Gaetano, Reina Andrea, Reina Giulia, Ronchini Costanzo, Siracusa Mariana, Speciale Maria Elena, Superbi Giuliana, Torres Antonio, Tripiciano Giulio, Ugolini Pierpaolo, Valentini Daniela, Valenza Giuseppe, Venturi Massimo, Volanti Marco, Volpe Maria, Zanetti Alessandro, Zanetti Emanuele, Zanetti Nicola. Thank you.